Terzo anello, ad alta voce, L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Non trascorse molto tempo che si produsse il primo dei misteriosi avvenimenti che dovevano finalmente sbarazzarci del capitano. Mia madre era su col babbo e io stavo apparecchiando il tavolo della colazione per il ritorno del capitano quando la porta si aprì e si introdusse un individuo che non avevo mai visto prima. Era un essere pallido, cereo, con due dita di meno alla mano sinistra, e quantunque portasse un coltellaccio non aveva l'aria granché pugnace. Io ero sempre sul chi vive nei riguardi di gente di mare, fosse a una gamba o a due, e ricordo che costui mi inquietò. Non aveva il portamento marinaresco, ma un certo sapore di mare l'aveva anche lui. Gli chiesi in che cosa potessi servirlo e mi rispose che avrebbe preso un rum. Ma mentre stavo uscendo dalla stanza per prenderglielo, si sedette su un tavolo e mi accennò di andargli vicino. Sostai dove mi trovavo col mio tovagliolo in mano. «Vieni qui, ragazzo!» mi disse. «Fatti più vicino!» Io mi accostai di un passo. «È quella lì la tavola per il mio amico Bill?» chiese ammiccando. Risposi che il suo amico Bill io non lo conoscevo e che quella era la tavola per una persona che alloggiava in casa nostra, che noi chiamavamo il capitano. «Beh», disse lui, «padronissimo il mio amico Bill di farsi chiamare o no capitano. Ha un taglio attraverso una gota questo mio amico Bill e un piacevolissimo modo di trattare, specie quando è bevuto. Ecco cos'ha questo mio amico Bill. Mettiamo, tanto per dire, che il tuo capitano abbia un taglio su una gota, e mettiamo, se ti garba, che codesta gota sia la destra. Eh? Benone, cosa ti dicevo? E adesso è qui, in questa casa, il mio amico Bill?» Gli dissi che era fuori a passeggio. «Da che parte, bimbo mio? Da che parte ha preso?» E quando gli abbia additato la rupe e detto che il capitano doveva rientrare quanto prima e risposto a qualche altra domanda, «Ah, disse lui, questa gli andrà davvero a fagiolo, all'amico Bill». L'espressione del suo viso nel pronunziare queste parole era tutt'altro che promettente e io avevo i miei particolari motivi per ritenere che il forestiero prendesse un abbaglio, anche ammesso che intendesse quel che diceva. Ma non era affar mio, riflettevo, e d'altronde era difficile sapere come comportarsi. Il forestiero indugiò nel vano all'interno della porta della locanda, spiando dall'angolo come il gatto all'agguato del topo. Una volta feci io un passo fuori nella via, ma lui mi richiamò immediatamente indietro, e dato che non avevo ubbidito abbastanza celermente a sua idea, il più orribile mutamento si produsse su quel suo cereo viso e mi ordinò di rientrare con una bestemmia che mi fece scattare. «Un figliolo mio», andava dicendo, «che ti somiglia come una goccia d'acqua ed è tutto l'orgoglio della mia vita. Ma quel che occorre ai ragazzi è la disciplina, bimbo mio, disciplina! Se tu avessi navigato con Bill, vedi, non saresti rimasto lì a farti richiamare due volte. No, davvero! Questo non è mai stato il metodo di Bill, né di chi navigasse con lui. Ma eccolo, eccolo in persona il mio amico Bill, con un cannocchiale sotto il braccio, che Dio lo benedica! È proprio lui! Ora, a te e a me non resta che tornare in sala, bimbo mio, e nasconderci dietro l'uscio e così fare a Bill una bella improvvisata. Dio lo benedica!» Tornò a ridire. Così dicendo, il forestiero retrocesse con me nella sala e mi collocò dietro di sé nell'angolo in modo che restassimo entrambi nascosti dall'apertura dell'uscio. Io me ne stavo assai interdetto e impressionato, come potete immaginare, e la mia paura cresceva, constatando che anche il forestiero era evidentemente impaurito. Disimpegnò il manico del suo coltellaccio e fece scorrere la lama nel fodero, e tutto il tempo che restammo in attesa non fece che inghiottire, quasi avesse, come si dice, gli stranguglioni. Finalmente entrò il capitano, sbatté l'uscio e senza guardare né a dritta né a manca si diresse attraverso la stanza verso la tavola della sua colazione. «Will!» cominciò il forestiero con voce che mi parve si sforzasse di rendere forte e ardita. Il capitano girò sui tacchi e ci affrontò. Il colorito bronzino era svanito dal suo viso e perfino il naso gli si era fatto blu. Aveva lo sguardo di chi vedesse il demonio, o magari di peggio, se c'è, e parola d'onore mi rincrebbe vederlo in un istante così invecchiato e disfatto. «Su via, Will! Tu mi riconosci! Tu lo riconosci senza fallo, un vecchio compagno di navigazione come me!» diceva il forestiero. Il capitano emise una specie di gemito. «Cane nero!» disse. «E chi altri?» replicò lo sconosciuto prendendo a brivio. «Cane nero in carne e ossa!» Venuto appositamente per far visita al suo vecchio compagno Bill, all'albergo dell'Admiral Benbow. Bill! Bill! Le abbiamo pur viste noi due, da quando ci rimisi questi due artigli. E alzava la mano mutilata. E vada, fece il capitano. Mi hai beccato. Eccomi qui. Sputala fuori. Di che si tratta? «Ora sì che riconosco il mio Bill!» riprese Cane Nero. «Ora ci dai dentro, Billy! E io mi farò portare un bicchiere di rum da quel caro ragazzo lì che ho preso tanto in simpatia e ci metteremo comodi, se non ti dispiace, e discorreremo franchi da quei vecchi camerati di bordo che siamo!» Quando tornai col rum, li trovai uno di faccia all'altro al tavolo della colazione del capitano. Cane Nero prossimo alla porta e seduto di sghembo in modo da avere un occhio al suo vecchio compagno di bordo e uno, parve a me, alla sua ritirata. Per parecchio tempo, quantunque non mancassi di impegnarmi ad ascoltare, non percepii che un chiacchiericcio sommesso, ma poi le voci salirono di tono e potei cogliere una parola o due, la maggior parte bestemmie del capitano. «No, no, e poi no, finiamola!» gridò una volta, e poi ancora. «Se ad essere la forca, sarà la forca per tutti, dico io!» A un tratto vi fu un'orrenda esplosione di bestemmie e altri rumori. Tavolo e sedie andarono a finire in mucchio. Seguì un cozzar di lame, poi un urlo di dolore, e un istante dopo vidi Canenero in fuga, precipitosa, e il capitano che lo inseguiva accanitamente, entrambi con i coltellacci snudati, il primo sanguinante alla spalla destra. Proprio sulla porta il capitano vibrò al fuggitivo un ultimo colpo tremendo che gli avrebbe certamente spaccato la schiena se non fosse stato intercettato dalla nostra grande insegna dell'Admiral Benbow. Ancora oggi potete vederne la tacca sull'orlo basso della cornice. Questo colpo fu l'ultimo dello scontro. Una volta ritrovatosi nella via, benché ferito, Canenero rivelò un paio di garretti da corridore e in mezzo minuto scomparve dietro l'angolo della collina. Il capitano, dal canto suo, rimase inebetito a fissare l'insegna. Poi si passò varie volte la mano sugli occhi e infine rientrò nella casa. «Jim!» chiamò. «Rum!» E nel dirlo barcollò leggermente e si riprese appoggiando una mano contro il muro. «Siete ferito?» gridai io. «Rum!» ripeté. «Devo battermela di qui! Rum! Rum!» Corsi a prenderlo, ma mi reggevo male in gambe dopo quanto era accaduto, e ruppi un bicchiere e guastai la cannella. E mentre ero ancora così impacciato, udii un tonfo pesante in sala. E precipitatomi dentro trovai il capitano lungo disteso sul pavimento. Nello stesso istante mia madre, allarmata dalle grida e dalla zuffa, giunse di corsa dalle scale per aiutarmi. Tra tutti e due gli sollevammo la testa. Respirava molto rumorosamente e affannosamente, ma aveva gli occhi chiusi e il viso di un orribile colore. Fu un gran sollievo per noi quando la porta si aprì ed entrò il dottor Livesey in visita da mio padre. «Oh, dottore!» gridammo. «Che cosa si può fare? Dov'è ferito?» «Ferito un accidente», disse il dottore. «Ferito quanto me e voi. Ha avuto un colpo, tale e quale gliel'avevo predetto. E adesso, signora Hawkins, salite subito da vostro marito. e se è possibile non gli raccontate nulla. Dal canto mio, devo fare del mio meglio per salvare la vita tre volte spregevole di questo individuo, e il nostro Jim mi porterà una catinella. Quando ritornai con la catinella, il dottore aveva già rimboccato la manica del capitano e denudato il suo grosso braccio muscoloso. Era tatuato in parecchi punti. Ecco la fortuna. Vento in poppa. Billy Bones se ne frega era molto chiaramente tracciato e ben leggibile sull'avambraccio. E sopra, vicino alla spalla, vi era lo schizzo di una forca con un impiccato penzoloni reso, a mio giudizio, con molto spirito. «Profetico», disse il dottore toccando quella figura col dito. «E adesso, messer Billy Bones, se questo è il vostro nome, daremo un'occhiatina al colore del vostro sangue. Jim, hai paura del sangue?» «No, signore», risposi io. «Bene, allora», seguitò. «Tu tieni la catinella». Dopodiché prese il suo bisturi e aprì una vena. Bisognò cavargli parecchio sangue prima che il capitano riaprisse gli occhi e girasse attorno uno sguardo annebbiato. Riconobbe per primo il dottore, con un'inconfondibile smorfia di contrarietà. Poi il suo sguardo cadde su di me e apparve confortato. Ma subito mutò colore e tentò di sollevarsi, gridando. «Dov'è cane nero?» «Non c'è nessun cane nero qui», disse il dottore, «salvo quello che vi sta alle costole. Avete seguitato a ingozzare rum e vi ha preso un colpo, proprio come vi avevo predetto io. E molto a malincuore vi ho riacciuffato all'ultimo momento. Ora però, signor Bones...» «Quello non è il mio nome», interruppe il capitano. «Per quel che me ne importa», replicò il dottore, «è il nome di un vecchio filibustiere di mia conoscenza, e io vi chiamerò così per amore di brevità. E quel che ho da dirvi, eccovelo. Un bicchiere di rum non vi ammazzerà certo, ma se prendete il primo seguirà il secondo e il terzo, e scommetto la mia parrucca che se non tagliate corto creperete. La capite questa? Creperete e ve ne andrete al creatore. E ora su, fate uno sforzo. Vi aiuterò a mettervi a letto per ora». Tra tutti e due, a gran fatica, riuscimmo a issarlo su per le scale e adagiarlo sul letto, dove la testa gli piombò sul guanciale, come se stesse per svenire. «E ora, mettetevelo bene in zucca. Mi sgravo la coscienza. Rum, per voi, significa morte». Verso mezzogiorno mi fermai alla porta del capitano con delle bibite rinfrescanti e delle medicine. Era pressappoco nelle stesse condizioni in cui l'avevamo lasciato, solo un po' più sollevato, e pareva insieme debole ed eccitato. «Jim», disse, «tu sei l'unico qui che valga qualcosa, e sai che con te sono sempre stato buono. Non c'è stato mese che non t'abbia dato i tuoi 4 penny d'argento, tutti tuoi. E ora vedi, amico, son più di là che di qua io, e da tutti abbandonato. Dimmi, Jim, me lo porti vero un goccetto di rum? Ora non me lo neghi, amico, vero?» «Il dottore...» cominciai, ma lui mi tagliò le parole in bocca per mandare un accidente al dottore con voce flebile ma irosa. «Ve ne porterò un bicchiere, ma niente di più». Quando glielo portai, lo afferrò avidamente e lo tracannò d'un fiato. «Ah! Ah!» esclamò. «Ora va un po' meglio. Naturale. E ora, amico, codesto dottore ha per caso detto quanto tempo dovrò starmene disteso in questa decrepita cuccia?» «Una settimana almeno», risposi. «Per 1000 fulmini!» gridò. «Una settimana! Non posso! Nel frattempo mi avranno bollato col marchio nero! Quei cialtroni saranno già sulle mie tracce in questo stesso maledetto minuto! Cialtroni che non hanno saputo custodire quello che possedevano e vorrebbero arraffare la roba altrui! È comportamento da marinai questo, vorrei sapere! Ma io ho l'anima del risparmiatore! Non li ho mai sciupati i miei denari io, e nemmeno li ho persi, e gliela farò di nuovo io. Non ho paura di loro io, spiegherò un altro terzaruolo e li lascerò di nuovo in coda!» infine. Quel marinaio di oggi, l'hai visto? Cane nero. Ah, cane nero, disse lui. È un cattivo soggetto, sai, ma ce ne sono di peggio tra quelli che l'hanno mandato. Senti, se non riesco a battermela in nessun modo e mi appioppano il marchio nero, ricordati che quel che preme a loro è il mio vecchio cassone da marinaio. Dunque tu mettiti a cavallo, ci sai stare, vero? Bene, allora mettiti a cavallo e vai. Ma sì che voglio, vai, vai da quella vecchia ciabatta di dottore e di chiamare a raccolta più gente che può, magistrati e via dicendo, e ne farà una retata di tutti qui all'Admiral Bembo, tutta la vecchia ciurba di Flint, dal marinaio al mozzo, tutto quel che ne rimane. Ero il secondo di bordo io, secondo di bordo del vecchio Flint, e sono l'unico che conosca il luogo. Me lo indicò a Savannah, lui stesso, quando era morente, come fossi io ora, vedi? Ma non fiatare finché non mi bollano col marchio nero, o finché non rivedi quel cane nero, o l'uomo di mare con una gamba sola, Jim, soprattutto quello! Ma che cos'è questo marchio nero, capitano? È un avvertimento, figliuolo. Te lo spiegherò meglio se arrivassero fin lì. Tu fa la buona guardia, Jim, e faremo a mezzo noi due. Parola d'onore. Che cosa avrei fatto se tutto fosse andato regolarmente? Non lo so. Probabilmente avrei raccontato tutta la storia al dottore, perché ero ossessionato dal dubbio mortale che il capitano potesse pentirsi della sua confessione e liberarsi di me. Ma così come andarono le cose, il mio povero padre spirò quella sera stessa, quasi all'improvviso, e ciò relegò da parte ogni altro pensiero. Il nostro naturale cordoglio, le visite dei vicini, i preparativi del funerale e tutto il lavoro della locanda da mandare avanti lo stesso mi tennero talmente occupato che ebbi appena il tempo di ripensare al capitano e meno che mai alle mie paure. Il capitano era debole, e a dire il vero sembrava si indebolisse ogni giorno di più, anziché riprendere le forze. Si trascinava su e giù per le scale, andava dalla sala alla mescita e viceversa, e qualche volta metteva il naso fuori dell'uscio per annusare il mare, appoggiandosi ai muri per camminare, con il respiro fitto e greve di chi salga un'erta scoscesa. Non si rivolse mai più a me in particolare, ed è mia convinzione che si fosse più che scordato le sue confidenze. Ma il suo umore era irritabile e, per quanto glielo permetteva la sua debolezza fisica, più violento che mai. Ora aveva la pericolosa abitudine, quando era ubriaco, di sfoderare il suo coltellaccio e collocarlo sul tavolo a portata di mano. Ma con tutto ciò si curava meno della gente. Sembrava chiuso nei suoi stessi pensieri e piuttosto assente. Una volta, ad esempio, con nostra somma sorpresa, intonò un'aria diversa, una specie di rustico canto d'amore che doveva aver appreso in gioventù, prima di mettersi a navigare.